Letture di Radio 24. Nel XIV secolo, due esploratori veneziani, i fratelli Antonio e Niccolò Zen, intrapresero un viaggio verso l'estremo nord, alla ricerca di terre inesplorate. 200 anni dopo, un loro discendente trovò le carte geografiche e i resoconti di questi viaggi e decise di pubblicarli. Nel suo libro Irresistibile Nord, Andrea di Robilant ripropone alcune di queste pagine, alternandole alla cronaca del suo pellegrinaggio fatto negli stessi luoghi descritti dai due esploratori. Anche se nel corso dei secoli ci fu chi mise in dubbio la veridicità di questi viaggi, dai racconti dei due fratelli emerge la passione di chi si trova ad affrontare luoghi esotici come la Frislanda, l'Icaria o l'Estotilan, terre che fin dal nome evocano mistero. Si partirono 26 anni fa quattro navigli di pescatori, i quali, assaltati da una gran fortuna, molti giorni andarono come perduti in mare. Quando, finalmente raddolcitisi il tempo, scoprirono un'isola, detta Estotilanda, posta imponente, lontana da Frislanda, più di 1000 miglia, nella quale si ruppe un dei navigli. E 6 uomini che erano su furono presi dagli isolani e condotti in una città bellissima e molto popolata, dove il re che signoreggiava, fatti venire molti interpreti, non ne trovò mai alcuno che sapesse la lingua di quelli pescatori, se non un latino, nella stessa isola per fortuna medesimamente capitato, il quale, dimandato loro da parte del re chi erano e di dove venivano, raccolse il tutto e lo riferì al re, il quale, intese tutte queste cose, volle che si fermassero nel paese, perché essi, facendo il suo comandamento per non si poter altro fare, stettero 5 anni nell'isola e appresero la lingua. E un di loro narra che è ricchissima e abbondantissima di tutti i beni del mondo e che è poco minore di Islanda, ma più fertile, avendo nel mezzo un monte altissimo dal quale nascono 4 fiumi che la irrigano. Quelli che l'abitano sono ingegnosi ed hanno tutte le arti come noi e credesi che in altri tempi avessero commercio con i nostri, perché dice di aver veduto libri latini nella libreria del re che non vengono ora da loro intesi. Hanno lingua e lettere separate, e cavano metalli di ogni sorte, e soprattutto abbondano in oro. Hanno boschi di immensa grandezza, e fabbricano a muraglia, e ci sono molte città e castella. Fanno navigli e navigano, ma non hanno la calamita, né intendono col bossolo la tramontana. Per il che questi pescatori furono in gran pregio, sì che il re li spedì con 12 navigli verso Ostro, nel paese che essi chiamano Drogio, ma nel viaggio ebbero così gran fortuna che si tenevano per perduti. Presi nel paese, furono la più parte da quelli feroci popoli mangiati, cibandosi essi di carne umana, che tengono per molto saporita vivanda. Ma mostrando loro quel pescatore co compagni il modo di prendere il pesce con le reti, scampò la vita. E pescando ogni dì in mare e nelle acque dolci, prendeva assai pesce e lo donava ai principali, onde se ne acquistò perciò tanta grazia, che era tenuto caro e amato e molto onorato da ciascuno. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Andrea di Robilant, Irresistibile Nord, Corbaccio, 224 pagine, 17,60 €. Letture di Radio 24. Marisa Merico nasce a Milano nel 1970, figlia di una ragazza inglese finita in Italia in cerca di lavoro e di Emilio di giovine, destinato a diventare uno dei boss internazionali dell''Ndrangheta. Negli anni 80 anche la giovane Marisa viene avviata alla carriera criminale e sarà proprio lei a diventare capo del clan quando il padre finirà in galera. Arrestata e condannata a 10 anni di carcere, Marisa riuscirà, per amore dei figli, ad uscire dal giro. Oggi vive in Inghilterra e racconta la sua vita nel libro L'Intoccabile, una storia che parte dalla Calabria, dove viveva la famiglia di suo padre. Mentre il nonno diventava un uomo di fiducia del clan, trasportando vari articoli di contrabbando, la nonna iniziò a partorire un figlio dietro l'altro.

è già tutta nel romanzo La piccola Dorrit. Il collasso del sistema scolastico? Basta leggere Nicholas Nickleby. La piccola criminalità? Oliver Twist, naturalmente. Per scrivere una serie come Lost non potevamo rivolgerci a modelli televisivi preesistenti, per il semplice motivo che non c'era nulla di simile, dice Kurse. È per questo che abbiamo guardato a Dickens. La sua più grande qualità è suscitare nel lettore non solo la curiosità per quello che accadrà nella storia, ma quello che accadrà a ogni singolo personaggio della storia, che è esattamente quello che abbiamo cercato di riprodurre in Lost. Ben lungi dall'essere una provocazione, quella di Kurse è un'analisi oggettiva. Soprattutto è un omaggio, uno dei tanti che in questi mesi stanno arrivando all'indirizzo dello scrittore inglese in occasione dei 200 anni dalla nascita e che in modo diverso sottolineano tutti la stessa cosa. Il primo a essere contento di certi accostamenti pop sarebbe proprio lui, Charles Dickens. La coincidenza tra vita vissuta e vita letteraria è una delle cose che lo rendono eternamente affascinante, scrive Christopher Hitchens nell'articolo pubblicato postumo da Vanity Fair. Una caratteristica, a pensarci bene, che è alla base di tanto cinema e tanta moderna televisione, reality show compresi. Non solo. Se c'è una cosa centrale nell'insegnamento lasciato da Dickens, scrive ancora Hitchens, è l'esortazione a rimanere attaccati all'infanzia, al bambino dentro di noi. Ben vengano quindi i gadget, le infinite riletture televisive, le figurine, i DVD, gli album con i testi trasformati in canzoni, il turismo letterario a metà tra omaggio e sfruttamento. E ben venga anche Dickens World, il parco divertimenti aperto nel 2005 nel Kent e collocato tra un cinema Odeon da una parte e un outlet dall'altra. Con le attrazioni metà funzionanti e metà no per mancanza di soldi, è la quintessenza dell'esperienza dickensiana, contraddizioni comprese. Cultura mista a intrattenimento, povertà mista a divertimento. Un progetto così imperfetto che sarebbe di sicuro piaciuto allo scrittore. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Carla Bonelli, Come trendy Oliver Twist, dal numero di aprile del mensile Il.